Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Intervento in forze dei vigili del fuoco per un violento incendio che nella notte a Osoppo ha mandato in fumo un deposito di truccioli di legno nel comprensorio industriale della Fantoni. Rogo spento, i pompieri stanno ancora ultimando la bonifica del sito. All'inizio del GR vedremo anche com'è la situazione in autostrada in questa giornata da bollino rosso per i rientri dei turisti dalle vacanze. Code in ingresso ai caselli dell'Isert e di Latisana. Al via ieri pomeriggio il 38esimo Rally Piancavallo, caratterizzato quest'anno da un forte e commosso ricordo di Matteo Doretto, il pilota di Pordenone morto in un incidente durante una gara di rally in Polonia 2 mesi fa. A Rovereto in Piano ieri si è svolta una toccante cerimonia. Alta tensione in autostrada mercoledì sera quando sul raccordo a Fernetti un automobilista ha imboccato la rampa di uscita procedendo contromano fino a Sistiana, dove finalmente si è accorto dei molteplici tentativi delle pattuglie della Polstrada di fermarlo. È pesante in tutti i settori la carenza di manodopera specializzata e Pordenone è la provincia italiana in cui gli imprenditori faticano di più a reperire dipendenti con le richieste capacità professionali. In 4 casi su 10 i colloqui vanno deserti. Il comune di Campoformido rescinde il contratto con la ditta che aveva avuto l'appalto per la ricostruzione della scuola media. I lavori avrebbero dovuto essere consegnati a dicembre, tra 3 mesi, ma al momento l'opera è realizzata solo per il 6%. A Fusine, 23esima edizione del campus respiratorio organizzato dallo pneumologo e allergologo Mario Canciani. La residenza estiva per i ragazzi mira a curare l'asma, una 50ina di giovani coinvolti quest'anno. La Turandot, il colossal pucciniano del teatro lirico, cantata e interpretata da un paese intero con l'obiettivo di ridare a questo genere musicale una voce autenticamente popolare, è successo ieri sera e con gran successo a Villa Sabbatini a Pozzuolo del Friuli. Nella pagina sportivina l'Udinese scenderà in campo domani a San Siro contro l'Inter. In C oggi la strana partita della Triestina Rocco contro Lecco senza i suoi tifosi, che invece faranno un presidio di protesta davanti allo stadio. Per il basket seguiremo il percorso di Cividale verso il prossimo campionato di Serie A2. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrea Saule e Antonio Cagliazza. Prosegue il lavoro di smassamento del materiale incendiato e il lavoro anche di bonifica del sito dopo il violento incendio che nella notte ha interessato un capannone della Fantoni di Osoppo, adibito a deposito di truccioli di legno. Ad alimentare le fiamme anche le raffiche di vento che spiravano in quel momento nella zona. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con uomini e mezzi da San Daniele, Gemona, Udine, Spilimbergo, coadiuati da volontari giunti da Pontebba e Cercivento. Sabato da bollino rosso sulla retta autostradale di 5 km da coda in ingresso all'Isert, con il serpentone che parte praticamente da Duino nonostante la chiusura al traffico pesante. Traffico intenso invece dal primo mattino anche in entrata alla Tisane, al nodo A24-A23 di Palmanova, sia verso Venezia che verso Udine. In questo caso le code però non hanno mai raggiunto i 2 km. Era morto a giugno, a soli 21 anni, durante le prove in Polonia, Matteo Doretto, giovane rallista pordenonese. Al 38esimo Rally Piancavallo, che parte questo pomeriggio, al giovane sportivo è stato tributato un forte e commosso ricordo. Siamo andati stamattina a Roveredo in Piano, dove si trova la partenza e dove ieri si è svolta una cerimonia toccante. Il cielo nero sopra Roveredo in Piano rispecchia l'animo ancora in lutto del mondo del rally, che si è riunito ad ascoltare l'alleluia ieri pomeriggio in ricordo di Matteo Doretto, pilota 21enne di Pordenone, scomparso a seguito di un'uscita di strada durante i test del rally di Polonia lo scorso 11 giugno. I piloti delle 128 auto che stanno partecipando in queste ore alla 38esima edizione dello storico rally Piancavallo si vedono tutti attorno alla Renault Clio personalizzata con la stessa livrea con cui Doretto aveva trionfato nel trofeo junior del campionato italiano assoluto rally 2024 proprio un anno fa. Noi siamo qui appunto a Roveredo in Piano con Corrado Della Mattia, presidente dell'ACE. Vediamo che di fatto qui c'è la famiglia di Matteo e ci sono tutte le persone che a Matteo hanno voluto bene. Certamente, ci sono tutti gli amici, ci sono le persone che conoscono, i genitori che conoscevano questo splendido ragazzo, e c'è un po' di nodo alla gola in sostanza per quello che è capitato. Come ha segnato il mondo del rally questa morte? E noi a Pordenone ci ha segnato in maniera molto forte, perché su questo ragazzo peraltro avevamo riposto tantissime speranze, e lui e come lui anche qualche altro ragazzo sono stati in questi anni la nostra espressione migliore di un'attività anche di formazione, perché il rally non è solamente competizione ma anche una scuola per far nascere e crescere nuovi piloti. Sicurezza prima di tutto. Sì, sicurezza sempre, questo è uno sport molto importante, molto anche difficile se vogliamo. Sicurezza innanzitutto, con la consapevolezza che appunto guidiamo delle macchine e di conseguenza rischiamo tutti i giorni e tutti i momenti. Rovereto in piano, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dovrebbe essere pienamente ripristinata in giornata la viabilità San Dorligo della Valle, il comune a est di Trieste, ieri investito da una pesante tromba d'aria che aveva provocato allagamenti e smottamenti. Già alle 8 di stamattina tecnici ed operai coordinati da Comune e Protezione Civile sotto la supervisione del DR erano al lavoro sulla strada che costeggia i depositi della SIOT, in pratica fra il ponte di Mattonaia e Caresana, dove ieri alcune macchine erano state per metà sommerse dall'acqua e dal fango. Il lavoro in via di ultimazione in questi minuti e l'ente locale di decentramento a breve dovrebbe anche procedere col via libera alla riapertura della circolazione. Infatti in mattinata un'altra ditta ha avviato gli interventi sulla provinciale 11 tra San Dorligo e Prevenico, mentre sulla 13 tra Caresana e Crociata quest'ultima è già stata riaperta poco più di un'ora fa. Mercoledì scorso verso le 20 una vettura ha percorso contromano la carreggiata est del raccordo autostradale 13, ossia quella che porta verso Trieste, procedendo però in direzione Venezia. Alta tensione nella sala video del centro operativo della Polizia Stradale di Udine, dove le telecamere rimandavano le immagini di quanto stava accadendo e dove giungevano anche già telefonate da diversi automobilisti che incrociavano l'incauto conducente. La manovra veniva segnalata già dalla confluenza che da Fernetti porta sul raccordo 13. Il conducente imboccava in contromano lo svincolo di Fernetti, utilizzato da chi intende uscire per raggiungere il confine di Stato provenendo da Monfalcone. La pattuglia della Polstrada di Trieste, immediatamente avvisata, si attivava lungo la carreggiata ovest del raccordo autostradale nel tentativo di affiancare il veicolo e dissuaderlo dal continuare. Soltanto all'altezza dello svincolo di Sistiana i poliziotti hanno individuato l'autovettura contromano lungo la corsia di sorpasso a una velocità di circa 100 km orari e si affiancavano per quanto divisi dallo spartitraffico centrale. Nonostante la presenza l'auto con lampeggianti attivi, le sirene e l'uso dell'autoparlante, il conducente interrompeva la sua marcia soltanto 2 km dopo. Sottoposto alla prova etilometrica, il conducente è risultato negativo. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo e la revoca della patente. In Friuli Venezia Giulia, così passiamo all'economia, in Friuli Venezia Giulia la difficoltà di reperire operai specializzati mette a rischio l'attività di tante piccole imprese del manifatturiero, in particolare in provincia di Pordenone, ecco l'analisi della CGA di Mestre. Gran parte dei distretti produttivi del Friuli Venezia Giulia è a rischio tenuta per la carenza di manodopera specializzata. Pordenone, in particolare, è la provincia nella quale gli imprenditori faticano più di tutti gli altri colleghi d'Italia a trovare un lavoratore dipendente. La ricerca di un operaio specializzato richiede in media 5 mesi e in 4 casi su 10 i colloqui vanno deserti. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha esaminato i report di Union Camere, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior del 2024 e del trimestre agosto-ottobre 2025, da cui emerge che tra agosto e il prossimo mese di ottobre sono previste 28.000 nuove entrate nel mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia, ma verosimilmente ben oltre la metà, il 55,3%, sarà di difficile reperimento. Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro si sta accentuando sempre di più, in particolare nel Friuli Venezia Giulia. Questa situazione si sta aggravando perché, dopo il periodo del Covid, tra i giovani è sempre più diffusa la ricerca di occupazioni caratterizzate da elevati livelli di flessibilità oraria. Inoltre, tali candidati mostrano una limitata disponibilità ad accettare incarichi con tempi di lavoro prolungati o condizioni lavorative particolarmente gravose dal punto di vista fisico. Sono dinamiche che stanno causando gravi difficoltà a numerose piccole imprese. A ciò si aggiungono fattori quali la denatalità e l'invecchiamento della popolazione. Inoltre molti candidati non possiedono le competenze tecniche e professionali richieste dagli imprenditori, in particolare nel settore manifatturiero, evidenziando lo storico divario tra il livello di apprendimento acquisito durante il percorso scolastico e le esigenze del sistema produttivo. I settori nei quali è sempre più difficile reperire operai specializzati sono l'edilizia e il manifatturiero, in particolare nelle filiere del legno, del tessile, abbigliamento, calzature e della metalmeccanica. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Edilizia scolastica. Il comune di Campoformido rompe il contratto con la ditta che avrebbe dovuto portare avanti il cantiere per la ricostruzione della scuola media Marchetti. Contratto firmato nell'agosto del 24 e cantiere consegnato il 24 settembre. Il progetto fissava l'ultimazione dei lavori entro dicembre 25, ma finora, scrive il comune in una nota, risulta eseguita appena il 6% dell'intera opera. Nel frattempo gli studenti erano stati trasferiti in un plesso scolastico di Pozzuolo del Friuli. Nonostante gli sforzi, scrive il sindaco Massimiliano Petri, l'impresa ha continuato a disattendere gli impegni. Ora non resta che avviare la procedura di risoluzione del contratto. La ditta affidataria, con sede a Caserta, prosegue. La nota dell'amministrazione di Campoformido risulta coinvolta in difficoltà simili anche nei cantieri scolastici di Porcia e di Cordenons, per un totale di circa 20 milioni di euro di appalti, tutti a rischio. L'impatto per la comunità: 150 studenti seguono le lezioni a Pozzuolo con un servizio di trasporto che costa 175 mila euro l'anno e comporta disagi non da poco per famiglie e insegnanti. È in corso dalle 9 e andrà avanti fino alle 23 a Monfalcone lo Sbaracco, appuntamento che mescola shopping e spettacolo, con anche un evento di cosplay e uno di spade laser. Una nona edizione che va al di là delle svendite di quanto rimasto invenduto con i saldi estivi, come ci spiega il presidente di Ascom Monfalcone, Davide Comolli. Per noi è l'importantissimo evento che ormai sono 10 anni, il prossimo sono 9 anni questo, che abbiamo l'occasione di mettere in vendita tutta una serie di cose che ovviamente non hanno girato durante l'anno e anche durante i saldi estivi non sono state vendute. Però è anche un'occasione per mettersi in luce, per farsi vedere. Ci sono tantissimi clienti che magari passano e non entrano nel negozio. Essendo che ci mettiamo esternamente con le merci, si ha l'occasione di avvicinare persone che normalmente se non entrerebbero. Per cui è una bella opportunità per tutti, non solo per chi vende scarpe o vestiti. Abbigliamento, ma non solo, ricordiamo. Diciamo che tutta la città, quest'anno siamo a 80 persone che aderiscono, dei negozianti, però in questa occasione abbiamo anche il vintage dei ragazzini, dei bambini che vengono a esporre i loro giocattoli, che non usano più. C'è il vintage. Il vintage proprio di chi ha cose vecchie da vendere, e poi abbiamo un sacco di eventi collaterali che ci sono in occasione dello Sbaracco, dai cosplay ai DJ, le anche offerte dei ristoranti e dei bar, che in questa occasione mi dicono lavorano tantissimo. Come sta il commercio a Monfalcone? È fagocitato dai grandi centri commerciali fuori oppure tutto sommato regge? Diciamo che Monfalcone ha avuto in questi anni sicuramente un calo di vendite, la prova è anche un po' la chiusura di alcuni negozi che erano storici, ed è dovuto al fatto che tantissima gente, specialmente i cosiddetti millennium, acquistano online. Poi noi abbiamo fatto scelte sbagliate, a mio parere, negli anni passati, perché c'è un centro commerciale quasi nel centro della città e questo non aiuta i commercianti, quelli storici che ci sono nelle vie. Devo essere sincero, chi c'è oggi sul mercato ha però la forza e la capacità di resistere, e vedo che continuano a lavorare discretamente, perché mi dicono che anche in occasione dello Sbaracco il lavoro diventa fortissimo. Ed eccoci alla parentesi meteorologica. Il cielo è variabile su pianura e costa ed è coperto in montagna. Le temperature alle 11, a Trieste 24 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 25 gradi e mezzo. A Gorizia e a Pordenone 23 gradi, a Udine 23,5, a Tolmezzo 17,5, a Tarvisio 16, Forni di Sopra 17, Piancavallo 13, Sappada 12, sul Lussari 12 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 11 e mezzo. A Grado e a Lignano 25, la temperatura del mare nelle due località è di 25 gradi. Queste invece le previsioni. Nel pomeriggio e fino a sera avremo cielo da variabile a nuvoloso con piogge temporali sparsi. Le piogge localmente potranno essere abbondanti. Miglioramento dalla serata e nella notte verso domenica bel tempo. Temperature massime al di sotto della norma del periodo. Un soggiorno estivo nei boschi di Fusine, nella natura più incontaminata, è una vacanza rigenerante, ma fa bene anche al sistema respiratorio e a chi soffre d'asma. Il campus respiratorio è pensato appunto per bambini e ragazzi asmatici. Quali benefici produce? Per la 23ª volta si è tenuto a Fusine, nel comune di Tarvisio, a poche centinaia di metri dal confine, il cosiddetto campus respiratorio organizzato dal dottor Mario Canciani, che è un pneumologo e allergologo specializzato nella cura di queste malattie, di queste patologie nei bambini. Una cinquantina, i ragazzi e le ragazze che avete portato qui quest'anno. Com'è andata questo campus che sta volgendo al termine? È andato molto bene anche sul piano climatico, abbiamo avuto sempre bel tempo, ma soprattutto gli esami che abbiamo finito adesso, cioè tra il primo e l'ultimo giorno, hanno evidenziato un miglioramento in quasi tutti i bambini. Adesso stiamo camminando, forse sentite anche i bambini in sottofondo attorno alla struttura. L'attività fisica fa parte di questo campus e fa parte anche di una gestione sana di questa patologia, cioè dell'asma. Esatto, l'asmatico deve fare più attività fisica degli altri, non di meno, come si dice normalmente, perché non vengano gli attacchi. Più sta all'aria aperta, più respira meglio e più resiste anche agli attacchi asmatici. E voi insegnate proprio come gestire gli attacchi asmatici senza farsi prendere dalla paura, ma agendo con razionalità. Esatto. Chi ha degli attacchi, quest'anno è venuto solo uno durante un'attività fisica che ha avuto difficoltà, gli altri vedono che fa la terapia, che riprende, tanto quello che ha avuto l'attacco poi è arrivato primo in cima. Fusini, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Portare in scena un'opera come Turandot di Puccini, un colossal del teatro musicale, facendo partecipare all'allestimento un paese intero, con l'obiettivo di ridare a questo genere musicale una voce autenticamente popolare. È la sfida di Tiziano Duca, direttore dell'associazione Opera Prima Vin, che a Villa Sabbatini, a Pozzuolo, ha dato vita a un progetto Puccini, partito già lo scorso anno con Gianni Schicchi e che prosegue con l'ultima incompiuta opera del compositore toscano. Professionisti ovviamente sono i protagonisti del cast e professionisti i componenti dell'orchestra. Il coro invece è composto da amatori che arrivano dalle compagini del Friuli ma anche del vicino